Ben ritrovati e ben ritrovate alla nuova puntata della Fuga del Gatto di oggi, che è domenica, oddio, il primo di marzo, il 5, domenica 5 marzo e giornatina strana con sprazzi di sole e un sacco di pioggia. Ma del resto chi ci ascolta in podcast tutto ciò non lo può sapere, non gli importa neanche troppo, ma invece chi... quelli bravi tra voi che ci ascoltano in diretta invece condivideranno con me il sole di questo pomeriggio. Con me, perché oggi, ahimè, sono da sola, sono in conduzione solitaria, l'altra gatta Virginia non c'è e quindi dovete accontentarvi di me, che però vi parlo di qualcosa di abbastanza non troppo noto, stranoto, però insomma diciamo che in Italia non ce lo filiamo più di tanto, perché oggi parliamo di William Byrd, o Byrd, più o meno si pronuncia mista, diciamo, ecco. William Byrd è un compositore rinascimentale, possiamo dire tardo rinascimentale, a cavallo tra il 500 e il 600 inglese. Nasce in particolare a Lincolnshire nel 1539 o 40, non si sa bene, la data è un po' indecisa, ecco, però più o meno sono riusciti a datare questo annetto. E muore a Standonmessing nel... invece questa data si sa di preciso, è il 4 luglio del 1623, quindi insomma nasce, vive in pieno periodo elisabettiano e a cavallo dei due secoli, tra il 500 e il 600. È, diciamo, uno dei più importanti, sicuramente, protagonisti di quell'epoca musicale, insieme a Tallis in realtà è il suo mentore, Thomas Tallis, di cui una volta parleremo approfonditamente perché insomma lo merita, direi, un bel po', ma non oggi. Oggi lo citiamo soltanto in quanto appunto mentore di William Byrd e sicuramente amico e persona che come lui condivideva sia un certo tipo di approccio alla musica, sia tra l'altro la sfiga o particolarità, diciamo così, di appartenere alla fede cattolica nel momento in cui era proprio sbagliato appartenervi, perché appunto vi ricorderete che insomma nell'Inghilterra a cavallo tra il 500 e il 600 c'era la regina Elisabetta prima, e insomma tra protestanti e cattolici non correva certo un buon sangue, mai direi, in Inghilterra, ma in quel periodino, ecco, in particolare. E però la particolarità di William Byrd è che nonostante ciò, del resto anche di Tallis, nonostante loro non nascondessero assolutamente la loro fede cattolica, d'altra parte il loro genio era tale, la loro maestria nella composizione musicale era tale che gli veniva comunque permesso di professare la loro fede, o quantomeno insomma non venivano ammazzati, ecco, già era tanto. Quindi un certo grado di tolleranza da parte della corte inglese e tra l'altro, appunto sì, piena riforma anglicana, persecuzione contro i cattolici come sappiamo, e non solo una tolleranza, ma addirittura la regina Elisabetta I concesse sia a William Byrd e maestro e amico Tallis di cui dicevamo prima, una sorta di monopolio nella composizione di quel periodo, perché gli concesse questo brevetto in esclusiva, solo loro due, per la produzione di carta da musica e la pubblicazione di musica sacra latina, che era un genere che era stato proibito per legge, quindi insomma non una concessione non da poco, concessione che peraltro rimase a Byrd fino alla morte di Tallis, nel 1585, quindi un decennio più o meno. La concessione la ottennero nel 1575, per 10 anni poterono avere questo monopolio sulla produzione di carta da musica e sulla scrittura, appunto, e composizione di musica sacra in latino. Chiaramente, poi lo vedremo, questa musica non poteva in nessun modo avere una funzione liturgica, non poteva andare in chiesa, non poteva essere suonata in chiesa, perché insomma sì, va bene la tolleranza, ma non esageriamo, e quindi poi vedremo l'uso che poi se ne ebbe. Ma non vi faccio troppi altri preamboli. E della vita di William Byrd purtroppo non si sa tantissimo, però ci sono rimaste tantissime opere e oggi ce ne ascoltiamo qualcuna, non le più note, perché anche se insomma anche quelle che vi faccio sentire sono piuttosto note, ma le più note in realtà durano a mezz'ore e quindi non si adattavano alla nostra trasmissione, che dura invece un po' poco. E quindi il primo pezzo che vi faccio sentire è una composizione Tristitia e Anxietas, giusto per farsela prendere bene subito, che praticamente è il primo di un'opera di musica sacra in due volumi, composto appunto da William Byrd, che si intitola Canzone Sacre 1, oppure anche detto Liber Primus Sacrarum Cancionum. E appunto sono 16 mottetti in latino, come dicevamo prima, visto che se lo poteva permettere, composti per lo più a partire dal 1578 al 1580, e pubblicati da William Byrd nel 1589, qualche anno dopo. Sono 16 mottetti a 5 voci, poi dopo parleremo un po' meglio della polifonia di quell'epoca. Sì, era i mottetti in generale, la polifonia vocale in quell'epoca andava per la maggiore. E in realtà appunto erano pubblicati nel 1589, ma avevano già circolato con un manoscritto negli anni precedenti e furono un po' ritoccati prima di essere pubblicati. Siccome appunto dicevamo prima non si potevano suonare in chiesa, la probabile destinazione era l'esecuzione per gruppi ristretti e un po' clandestini, nel senso che erano gruppetti che dentro le case si ritrovavano e coglievano le comunità cattoliche clandestine. Ad esempio c'era famosa la tenuta del conte Somerset, che era tra l'altro uno dei protettori più importanti di Byrd, da cui insomma si deduce anche il fatto che poi alla fine dietro a tutta questa tolleranza c'erano poi di fatto soldi ed potentati politici e economici. Altro che appunto una generale soltanto ammirazione per il genio musicale. Ma vabbè, in realtà poi se andiamo a analizzare il testo e la musica di questi mottetti, insomma, William Byrd non era proprio un deficiente, non voleva proprio morire così in maniera stupida, e le parole in realtà non vanno a toccare nessuna delle differenze chiavi tra cattolicesimo e protestantesimo, quindi le parole di fatto potevano essere pronunciate da qualsiasi cristiano al di là delle divisioni confessionali, e quindi insomma in realtà tanto bastava per non finire male. Quindi sentiamoci, basta parlare, sentiamoci Tristitia e Anxietas di William Byrd all'incirca 10 minuti più o meno per voi, e ci risentiamo dopo. Thank you. E per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, si trattava di William Byrd, Tristitia et Anxietas, che mi sembra un ottimo inizio per questa domenica pomeriggio. E proseguiamo con un altro brano sempre di William Byrd. Oggi sentirete solo pezzi tratti da questo compositore e in particolare adesso ci ascoltiamo invece una ninna nanna, un lullaby. Della durata breve di all'incirca 6 minuti, ma prima di ciò vi ricordo i nostri contatti a cui potete scriverci e domandarci cose, insomma, entrare in avvicinamento con il Wombat, il nostro sito wombat.ondablogs.org, dove trovate le varie cose che ci riguardano, il palinsesto, con anche oltre agli orari delle dirette, anche gli orari delle repliche. Le descrizioni delle varie trasmissioni, ogni volta pubblichiamo i podcast con le scalette in modo che se vi siete persi il nome di quel pezzo o quel riferimento che vi interessava lo ritrovate e insomma trovate un po' tutto su questo sito e anche gli appuntamenti prossimi vis-à-vis in cui potrete fare una conoscenza diretta con i Wombat e le Wombat, in particolare vi ricordo quello di domenica prossima alla Polveriera, domenica 12 marzo, dove premieremo il vincitore del contest del bando, cioè che abbiamo fatto per scegliere il logo del Wombat, e faremo anche una diretta dal mercato della polveriera. Ma vabbè, il sito lo sapete, la pagina twitter.com/radiowombatfi, la pagina facebook.com/radio-wombat-firenze. E la casella di posta wombat@insiberia.net. Questi nostri contatti ve li ridiciamo sempre fino allo sfinimento in modo che non siate costretti a tatuarveli addosso, ma ve li ricordiate. E proseguiamo sempre con William Byrd e Lullaby, sempre qui alla Fuga del Gatto su Radio Wombat. Questo è un madrigale, perché appunto William Byrd non è che scriveva soltanto musica sacra, per nostra fortuna anche, ma anche madrigali e comunque musica appunto laica, diciamo. E questo madrigale in particolare viene a come prima pubblicazione, la data è del 1588, in un libro di composizioni che si chiama Psalms, Sonnets and Songs. Vabbè, in questo libro si trovano moltissimi madrigali e composizioni varie, componimenti, tra cui anche altri che vi farò sentire dopo. Questa particolare versione che vi faccio sentire di Lullaby è eseguita dal complesso Hyperion 21 di capitanato, diciamo, da Jordi Savall, che per i più attenti e le più attente della Fuga del Gatto, insomma, si ricorderanno che ve l'ho già citato e anche fatto ascoltare quando parlavamo della viola da gamba. Jordi Savall, importantissimo contemporaneo esecutore della viola da gamba. Infatti, in questa esecuzione troviamo Jordi Savall alla viola soprano, Sergi Casademunt, non so assolutamente di quale lingua stiamo parlando, e quindi non so come pronunciare questo cognome, ma vabbè, viola tenore, e Imke David e Laurence Daschmidt alla viola bassa. E come soprano Montserrat Figueras, la compianta Montserrat Figueras, meravigliosa voce, ahimè, scomparsa da qualche anno. E quindi ora sentiamo Lullaby William Byrd. Oh, E questa era appunto Lullaby, nella esecuzione del complesso Experium 21, Jordi Savall e Montserrat Figueras e tutti gli altri tre viole. Proseguiamo sempre con William Byrd e ci ascoltiamo adesso una fantasia in La maggiore BK13, altrimenti detta. Questa fantasia è la numero 52 di un libro di composizioni che si intitola Fitzwilliam Virginal Book. È un libro che raccoglieva composizioni di vari autori per virginali. A questo punto dobbiamo introdurre il concetto di virginale. Appunto, il virginale era uno strumento che fa parte della. Beh, non si trova più tanto, ma insomma un po' si trova, che è uno strumento che fa parte della famiglia dei clavicembali. Di fatto è un clavicembalo più piccolo e fu uno degli strumenti a tastiera più diffusi in Inghilterra e anche nelle Fiandre, soprattutto nel XVII secolo. Ha una forma trapezoidale. È un pochino diverso dal clavicembalo, se avete presente come è fatto, e ha le gambe svitabili e infatti tutto ciò lo rende anche facilmente trasportabile, infatti veniva usato dagli strumentisti per portarselo in giro, perché insomma un clavicembalo era un po' più complessino da portarselo in giro, questo invece era piccolo, aveva le gambe svitabili e monta anche delle corde trasversali rispetto alla tastiera, poi dopo vedremo meglio. La tastiera ha un'estensione media di 4 ottave, quindi insomma un aggeggio piccolino, molto piccolo. E nel virginale, altra differenza con il clavicembalo, ad ogni tasto corrisponde sempre un'unica corda, mentre nel clavicembalo ce ne possono essere anche due o tre a seconda dei modelli. E le corde sono disposte ad angolo retto rispetto ai tasti, mentre invece nel clavicembalo sono parallele. Tant'è che infatti il clavicembalo si sviluppa un po' come il pianoforte, tutto per dritto, diciamo, mentre il virginale è storto. Basta guardare una foto anche su internet, lo potete notare. È nato come uno strumento appunto di uso domestico, casalingo, non era uno strumento da concerto, ecco, per quello si usava il clavicembalo. Però era sia per uso domestico nelle case, sia anche appunto per portarselo in giro. Il virginale deve probabilmente l'etimologia, ma anche se questa cosa non si sa e non è assolutamente sicura, ma pare che sia dovuta all'ampia diffusione tra le giovanette, ovviamente benestanti dell'epoca, che ovviamente si dilettavano con la musica, insomma, la musica faceva parte delle cose che gli erano concesse, e soprattutto per la loro educazione, e quindi, insomma, da questo viene il nome virginale, ma anche se, insomma, si tratta di una teoria assolutamente non sicura. Come dicevamo, parlavamo dei libri per virginale, libri di composizione, raccolti di composizione per virginale, perché infatti dalla seconda metà del Cinquecento in Inghilterra vennero raccolte queste composizioni che venivano chiamate Virginal Books, appunto. Tra questi compositori ce ne sono diversi, alcuni molto poco noti. I più famosi sono sicuramente William Byrd, di cui parliamo oggi, Orlando Gibson anche e il già citato Thomas Dallis. Nel periodo elisabettiano, però, attenzione che il termine virginale indicava in realtà qualsiasi tipo di clavicembalo. Quindi in realtà è abbastanza difficile immaginare con sicurezza per quale strumento queste composizioni siano state scritte. La versione che sentiamo noi di questo brano, infatti, è eseguita su di una spinetta. La spinetta è un altro tipo ancora di clavicembalo, è un tipo di virginale in realtà, e si distingue principalmente, a parte che è più piccola, ma per l'angolazione delle corde che sono in diagonale rispetto ai tasti, quindi non come il virginale classico che ha le corde ad angolo retto e non come il clavicembalo che invece ce l'ha in parallelo, il virginale, scusate, la spinetta è una sorta di via di mezzo perché ce l'ha a diagonale a 45 gradi, ecco, più o meno. Quindi la versione che ci sentiamo adesso di questa fantasia in La maggiore è suonata proprio su una spinetta, che peraltro è una delle versioni del virginale che è più facile trovare adesso, insomma, contemporanea, anche se ovviamente si tratta di uno strumento molto antico. In particolare viene suonata su una spinetta che viene detta English Hitchcock, perché è il nome del produttore di questo tipo di spinette, insomma, era come dire Stradivari, ma insomma meno famoso. Era una spinetta in particolare, abbiamo informazioni anche su proprio la spinetta su cui viene eseguito, ed è una spinetta costruita a Londra nel 1718. Attenzione. E ci sarebbero anche altri dettagli sull'accordatura, ma di cui penso non ce ne importa più di tanto, e quindi basta, passiamo a ascoltarci questo pezzo fantasia in La maggiore BK13, appunto la numero 52 nel Fitzwilliam Virginal Book, sempre William Byrd. Thank you. Bene, e dopo questa spinetta vorticosa, e adesso iniziamo, avevamo già iniziato all'inizio, ma riprendiamo la polifonia, e in particolare una composizione a quattro voci, questa che si intitola Ave Verum Corpus. Nome che forse non vi giungerà no noto perché in realtà si tratta di un manoscritto, cioè una composizione fatta da William Byrd, però a partire da un testo, un manoscritto composto nel XIV secolo, in realtà di anonimo, cioè di autore anonimo. E questo testo è stato ripreso un po' da diversi altri musicisti, poi usato nelle varie composizioni. Tra i più famosi direi, cioè mi viene in mente sicuramente la versione di Mozart, che poi è forse sì quella che ricorderete, l'Ave Verum o l'Ave Verum Corpus. Ma noi invece ci ascoltiamo la composizione di William Byrd, che venne pubblicata nel primo volume di un libro di composizioni che si chiamava Gradualia, pubblicato nel 1605. E quindi sì, ci tocca un po' parlare di polifonia. La polifonia in realtà è uno stile musicale, beh, ci sarebbe da parlarne tantissimo, ci sarebbero un sacco di cose interessanti da dire, che però adesso oggi non ho veramente il tempo di approfondire. Ad esempio, trattandosi di canoni ripetuti molto spesso, o comunque di voci che cantano ad intervalli molto ben precisi, insomma, le melodie sono studiate secondo intervalli matematici molto precisi, ci sarebbe da fare tutto uno studio, che peraltro, insomma, è stato fatto su appunto gli algoritmi, potremmo dire, matematici con cui venivano composti questi brani. Ma insomma, è un argomento lungo. Magari un giorno faremo un intreccio con Coccoli al silicio, la trasmissione qui del Wombat sulla tecnologia e la matematica e le scienze occulte. Cosiddette, quindi insomma potremmo intrecciare i temi e parlarne, ma non è oggi quel giorno. Oggi vi basti sapere che insomma la polifonia ovviamente si diversifica dalla monodia, beh, lo dice il nome, la monodia era musica cantata a una sola voce, diffusa soprattutto nell'antichità, insomma, soprattutto nel Medioevo e non solo. Poi piano piano si inizia a fare strada la polifonia, che vedeva intrecciarsi più parti di voci. In particolare, la polifonia vocale si sviluppò soprattutto in quelle parti d'Europa che non avevano conosciuto i movimenti di riforma, che avevano mantenuto l'unità religiosa intorno alla Chiesa romana, quindi di fatto in Inghilterra e negli altri paesi, le Fiandre, eccetera. E nella seconda metà del Cinquecento, soprattutto, si sviluppò moltissimo e toccò, diciamo, un po' le vette più alte. E diciamo che il contrappunto vocale venne semplificato e si attuò nello stile a cappella, quindi solo le voci. Infatti le composizioni che sentiamo non hanno l'accompagnamento, sono di solo le voci, e si raggiunse un equilibrio e diciamo, una pari dignità di importanza tra le voci. Non c'era il solista, come poi insomma siamo abituati invece dopo, il solista che spicca e gli altri che gli fanno un po' da spalla, ma no, le voci di fatto avevano tutte la stessa importanza e di fatto erano molto spesso quattro. C'era un quartetto che poi verrà definito classico, il cantus altus tenor bassus, e da cui poi deriva la nomenclatura moderna soprano contralto tenore basso. Tu questo alternarsi però con pari dignità di voci portò a una, chiamiamo, purificazione espressiva, si potrebbe dire, che di fatto rimane la peculiarità di queste opere, insomma, lo sentirete. Tra, oltre a, insomma, appunto, in Inghilterra, eccetera, eccetera, tutto ciò si sviluppò moltissimo in Italia, soprattutto nella scuola romana e intorno a Palestrina, insomma, il più famoso italiano, direi. E si sviluppò nelle cattedrali delle città italiane, ma non a Venezia e in altri paesi poi. E vabbè, oltre Palestrina potremmo ricordare anche Orlando di Lasso e invece per le messe Mottetti, William Byrd, appunto nell'Inghilterra sì protestante, ma che comunque conservava al suo interno delle radicate e anzi importanti derive cattoliche. E siccome però c'era come ne abbiamo parlato già altre volte, la fuga del gatto, c'era la bolla papale che vietava il canto femminile nelle chiese, le parti di soprano e di contralto erano affidate o alle voci bianche o ai falsettisti, ai controtenori, insomma. Più tardi, nel Settecento, come abbiamo visto nella puntata dedicata a Farinelli, invece si sostituirono con gli evirati. Le parti di tenore e di basso, invece, erano cantate da voci maschili. Quindi, sentiamo adesso questo Ave Verum Corpus a quattro voci, effettuato da questo coro, eseguito da questo coro che si chiama Virtual Bard Choir. E dura all'incirca, quanto dura? 5 minuti più o meno, 4-5 minuti, e ci risentiamo subito dopo. Yeah. siamo arrivati così all'ultimo brano di oggi, una puntata della Fuga del Gatto abbastanza sintetica, iniziata in ritardo e finita in anticipo, ma d'altra parte è così. E, in particolare, l'ultimo pezzo con cui vi lascio, della durata, insomma, un po' lunghetta di 6 minuti, neanche troppo, ma insomma un po' sì, si intitola Fair Brittain Isle, ed è una composizione per voce e quattro viole, pubblicata nel 1612, ed è un'elegia, chiamiamola così, per Henry, Prince of Wales, principe del Galles, il figlio maggiore di James First, di Giacomo I, che era morto insomma, quell'anno, 6 novembre del 1612, lo stesso anno, e quindi questa era una composizione che William Byrd dedica a lui. La intitola Fair Brittain Isle e dentro ovviamente c'è tutta una tiritera di elogi e lodi sperticate al compianto Prince of Wales. Ma comunque il pezzo e il brano è bellissimo e d'altra parte, insomma, in quei secoli lì i temi erano questi: o si parlava di religione o si parlava di regnanti, e se no c'erano tutto il resto, i madrigali, eccetera. Insomma, non è che poi alla fine c'era solo questo, ma insomma i temi principe erano un po' dovuti, insomma, non è che si poteva scegliere tantissimo. E all'interno di questi temi, comunque, insomma, direi che William Byrd ci ha regalato delle cose incredibilmente belle. E vi lascio quindi con Fair Brittain Isle, appunto, una voce questa volta, non più polifonia, e però anche quattro viole da gamba che vi ricorderete, ne abbiamo parlato un po' tempo addietro, ma se non ve lo ricordate potete andare a riguardare i vecchi podcast della Fuga del Gatto e trovare la puntata dedicata a questo strumento, la viola da gamba, tanto, tanto dimenticato e tanto lasciato da parte qui in Italia ultimamente. Quindi vi do appuntamento a domenica prossima, non più in solitaria, ma di nuovo con la mia amata conduttrice, Madonna quanto è difficile dire questa parola, Virginia, che saluto tra l'altro, e voi nel frattempo rimanete sintonizzati sul Wombat, perché a seguire ci sono repliche delle trasmissioni e altre cose belle, il nostro Bobinone più in là, insomma, rimanete sempre sul Wombat, non ci abbandonate. A presto, ciao ciao! Thank you. Mon petit porte